Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius, ascoltiamo i titoli e poi iniziamo questa puntata che conterrà anche un'informazione psicologicamente utile per chi si appresta alla maturità. Non è proprio così, ma comunque ne parliamo fra un po'. Contro il sentito dire è il titolo di un convegno dedicato a un grande psichiatra italiano recentemente scomparso, Giovanni Gervis. Copiare a scuola, copiare le canzoni, copiare i vincenti di uno sport. Sono infinite le situazioni in cui si possono emulare i comportamenti degli altri e quella dei copioni è la strategia vincente. Ce lo dice uno studio internazionale. Strafatti. Nient'altro che fatti sulle droghe più usate e abusate, dall'alcol all'ecstasy. È il titolo di un saggio sulla neuroscienza degli stupefacenti. Diabolik finisce al Politecnico di Milano per l'invenzione dei suoi portentosi strumenti e la fondazione dell'Ateneo si interessa davvero di innovazione. Nell'estate del 2009, quindi è quasi un anno, ci lasciò Giovanni Gervis, psichiatra, psicanalista italiano, la cui produzione in questo campo è stata di livello internazionale. Gervis non fu solo importante nella sua area di ricerca, è stato anche un intellettuale molto attento a processi sociali, politici e culturali del nostro paese. A lui è dedicato un convegno con un titolo che è questo, Contro il sentito dire, e questo convegno inizierà lunedì. Per parlare di Gervis, questa sera abbiamo con noi Gilberto Corbellini. Buonasera Corbellini. Buonasera. Storico della medicina all'Università La Sapienza di Roma. Lei, Corbellini, ha scritto anche con Gervis un libro piuttosto importante, La razionalità negata. Di quando è il testo? Del 2008. Del 2008, quindi recentissimo, e che ha molto a che vedere anche con il titolo di questo convegno, che è un titolo originale. Di solito i convegni non hanno questi titoli, però va un po' spiegato e dietro questo titolo, Contro il sentito dire, c'è tantissimo. Provi un po' a smontarcelo questo titolo. C'è Gervis, insomma, un omaggio a lui, perché negli ultimi tempi era una delle sue idee costanti, quello di della percezione di vivere in un paese dove gli intellettuali e i politici parlano spesso delle cose per sentito dire, sulla base delle impressioni, delle loro opinioni, invece di documentarsi e quindi di discuterne con una consapevolezza critica e anche con l'intenzione di trovare delle soluzioni ai problemi. Certo, e se questa era la sua visione generale come intellettuale, a maggior ragione questo Contro il sentito dire ha a che vedere con la sua attività specifica nel campo della psichiatria e della psicanalisi, in particolare della psichiatria, in decenni, insomma. Sì, diciamo che lui ha avuto tra l'altro una storia intellettuale molto interessante, ha collaborato con De Martino nello studio del tarantismo in Puglia, ma poi soprattutto si è dedicato al tentativo di riformare l'assistenza psichiatrica in Italia e soprattutto a tentare di umanizzare le condizioni di vita nei manicomi. Ed ha vissuto con difficoltà, con ottimismo inizialmente, con tentativo di dialogare tutto il periodo della critica politica della psichiatria, quindi anche tutto il movimento antipsichiatrico, rendendosi rapidamente conto che in questo movimento c'erano delle componenti di forte ideologizzazione, di settarismo, che non avrebbero aiutato ad affrontare seriamente il problema della riforma dell'assistenza psichiatrica in Italia. Lui è stato collaboratore di Basaglia, ha vissuto insieme a Basaglia l'esperienza di Gorizia, poi lui e Basaglia si sono separati e Gervis è andato a fare un'attività di prevenzione a Reggio Emilia. e comunque diciamo la sua posizione rispetto al dibattito sulla psichiatria e anche alle origini della legge 180, che spesso qualcuno insomma ha frainteso come una opposizione, come una critica, qualcuno ha parlato di un riflusso conservatore di Jervis, non c'era nessun riflusso conservatore, basta leggere le cose che scriveva in quegli anni, ma persino negli anni 60 c'era diciamo la consapevolezza che si stavano semplificando troppo i problemi e che si rischiava di non riuscire poi effettivamente ad affrontarli. Ecco, vogliamo soffermarci rapidamente su questo aspetto, cioè lui era d'accordo assolutamente con lo scenario che si apriva con le ricerche di Basaglia, cioè basta con questi manicomi che erano dei carceri, non potevano certamente curare nessuno, quindi era in linea con questa posizione, però a un certo momento ritiene che alcune cose che vengono dette in quest'ambito siano superficiali, non siano sufficientemente scientifiche e razionali. Soprattutto riteneva che una certa posizione sulla quale lo stesso Basaglia è stato abbastanza ambiguo, vale a dire la tesi che la malattia mentale in buona sostanza non esiste, è una forma di rifiuto di una serie di rapporti e di relazioni sociali che sono esse stesse diciamo all'origine del disagio, ecco, lui invece riteneva che la malattia mentale fosse un problema di natura medica, andasse gestito con competenza, utilizzando tutte le risorse a disposizione, dai farmaci alla psicoterapia e quindi alla relazione terapeutica, anche certo, rispetto alla psicoterapia e alla psicodinamica. Insomma, Jervis è stato uno dei più importanti studiosi della psicoanalisi in Italia, ma anche rispetto alla psicoanalisi lui non ha mai difeso la pretesa di scientificità della psicoanalisi. Lui diceva che Freud è stato un grande perché lui voleva costruire una scienza della psiche a partire però da un'idea di scienza che era quella positivista dell'Ottocento. Si è sbagliato, non cerchiamo di difendere la psicoanalisi per quello che non è difendibile, ma rendiamoci forse conto che la psicoanalisi può essere uno strumento che nell'instaurare una relazione tra due persone, il paziente e l'analista, può essere di grosso aiuto per una di queste, il paziente che ha dei seri problemi diciamo di relazione con il mondo. Quindi un personaggio intellettualmente scomodo che però era difficile aggirare perché portava le sue tesi insomma in modo corroborate da molti dati e molte riflessioni appunto non sormontabili. Ma poi soprattutto era un divoratore di letteratura internazionale, insomma non c'era argomento sulla psichiatria e la psicologia rispetto a cui lui non fosse aggiornatissimo e non avesse letto le ultime cose pubblicate. La cosa interessante tra l'altro è che lui da metà degli anni 70 inizia un percorso che lo porta ad avvicinarsi sempre più agli strumenti della biologia evoluzionistica, della psicologia cognitiva, e negli ultimi anni libri come Individualismo e Cooperazione o Pensare a dritto e Pensare storto sono davvero un interessantissimo tentativo di portare anche in Italia, di discutere anche in Italia i contributi che era un approccio evoluzionistico, soprattutto le ricerche nel campo della psicologia cognitiva, possono dare alla discussione culturale in generale, ma anche al dibattito politico. Insomma, lui mette in evidenza come molte difficoltà, molti equivoci che ci sono in Italia nel confronto politico, la deriva sempre verso l'ideologizzazione, il settarismo, nascono dal fatto che non si tiene adeguatamente conto di come è fatta la nostra mente e di come noi siamo, diciamo, non siamo fatti in qualche modo per vivere in società così complesse e come quindi ne dobbiamo tenere conto, e soprattutto lavorando all'educazione e lavorando diciamo alla messa a disposizione di tutte le informazioni, di tutti gli strumenti possibili per affrontare razionalmente e concretamente i problemi. Contro il sentito dire, convegno che si apre a Roma lunedì. Dove esattamente, Corbellini? La facoltà di psicologia. Facoltà di psicologia. La facoltà di psicologia in via dei Marsi 78, durerà 2 giorni, lunedì 26 aprile e martedì 27, e vi parteciperanno molte persone che anche hanno lavorato con Gervis. Il convegno sarà aperto da una relazione dello storico della psicologia Luciano Mecacci, che il cui titolo è anche abbastanza eloquente, Giovanni Gervis, un intellettuale nel secondo Novecento. Ricordo che il convegno è patrocinato da Fondazione Sigma Tau, dall'Università La Sapienza e anche dalla casa editrice Bollati Boringhieri. Grazie Corbellini e buonasera. Grazie, buonasera. Breve ma un po' preoccupante aggiornamento sul terremoto cinese. Sapete tutti dell'ultimo sisma verificatosi nella regione di Qinghai. È stato un evento tutt'altro che secondario. Ad oggi si contano più di 2.000 vittime. C'è però un dato poco piacevole che i geologi cinesi ritengono di poter ricavare dallo studio delle caratteristiche di questo terremoto. Il sisma non hanno la stessa origine, anche se gli effetti che producono sono invece sostanzialmente gli stessi, ovvero i movimenti in profondità nella Terra sono molteplici. In questo caso il terremoto è stato generato da uno slittamento dei due lembi della faglia che si trova al di sotto di questa regione, ma per la configurazione geologica che in quella zona si trova, i geologi ritengono che il movimento della faglia sia stato in grado di esercitare una pressione su un'altra faglia, una che non è entrata in azione nel terremoto di una settimana fa, una pressione che non si è ancora scaricata quindi e che potrebbe farlo in un futuro prossimo. Ora, i bilanci tanto disastrosi dei terremoti cinesi sono anche dovuti a strutture abitative molto fragili, molto approssimate. I geologi quindi suggeriscono alle autorità di rinforzare tutti gli edifici esistenti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al nostro gioco, un gioco di corsa. Ecco il quiz. L'interrogativo è il seguente: siamo abbastanza lontani dalla velocità massima che un umano può raggiungere in corsa? Parliamo ovviamente dei 100 metri e prendiamo in considerazione quelli maschili. Le tre possibili risposte sono le seguenti: no, siamo molto vicini e ci scriverete vicino, oppure sì, siamo effettivamente lontani e ci scriverete lontano. Terza possibilità: in realtà non si riesce a stabilire e quindi ci scriverete dubbio. Qual è il libro che si vince questa settimana? È Strafatti, nient'altro che fatti sulle droghe più usate e abusate dall'alcol all'ecstasy. È un libro curato da Michele Limonato e Mario Barbieri, edito da Springer, e di questo libro parleremo nella trasmissione. In collaborazione con IBS.it. Mia cara Chiara Bicocco, adesso vediamo come va, però io sono dell'idea che quando la scienza scopre queste cose dovrebbe tacere, non comunicarle. Ma non è vero, Federico, vedrai che adesso ci spiegherà bene il nostro ricercatore e vedrai che non è così. Proviamo. Perché il tema di oggi è viva i copioni, una cosa del genere. Insomma, copiare a scuola, copiare negli sport, copiare la musica, eccetera, eccetera, appunto, sembrerebbe una strategia vincente. Hai detto niente. Da quanto si evince da un articolo pubblicato mica sul giornalino della parrocchia, Corriere dei Piccoli, su Science, quindi insomma, non possiamo non lamentarci. Ecco, è una ricerca internazionale, però ha preso parte anche un nostro ricercatore, un fisico che lavora al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, ed è qui con noi Stefano Ghirlanda. Buonasera, Ghirlanda. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Beh, dobbiamo dire che Stefano è già stato nostro ospite, lo conosciamo abbastanza bene, soprattutto perché ha vinto l'Ig Nobel italiano sul fatto che i polli preferivano i volti belli, ma questo è tutto un altro discorso, ma noi siamo orgogliosi di dirlo. Ecco, Stefano, ora sei tornato all'onore delle cronache per questo nuovo studio sui copioni. Insomma, raccontaci un po', e anche la modalità dello studio è veramente piuttosto bizzarra. Allora, lo studio riguarda il problema di come acquisire informazioni per risolvere un problema di cui non si conosce la soluzione. E tipicamente i ricercatori hanno contrastato due tipi di strategie: il provare, diciamo, da soli per tentativi ed errori sfruttando le proprie abilità, oppure il guardare come altre persone risolvono il problema. E diciamo, un problema simile a quello che abbiamo usato noi è un problema di tutti i giorni, in cui noi immaginiamo di trovarci arriviamo in un supermercato e dobbiamo scegliere tra 100 tipi di pasta, che come sappiamo nei supermercati ce n'è sempre di più e di più. Sì. Il problema è che noi non abbiamo il tempo di provarli tutti e di decidere quale è il migliore. E quindi la ricerca, diciamo, usando semplicemente i propri mezzi, in questo tipo di problemi spesso è inefficiente. Una cosa che si può fare è arrivando al supermercato, guardare che marche comprano. Scelgono gli altri. Scelgono gli altri, esattamente. Mm. Noi abbiamo proposto una versione simile di questo problema alla comunità, diciamo, di ricercatori internazionali. Organizzando un torneo, nel senso che ogni ricercatore o gruppo di ricerca che voleva partecipare doveva inviarci una strategia di gioco che consisteva appunto in una serie di regole che specificavano quando copiare, quando invece provare da soli, eccetera. E queste strategie sono state fatte competere in una simulazione al computer, quindi in una specie di grosso supermercatone virtuale in cui loro potevano andare e scegliere i prodotti per conto proprio oppure guardare quello che sceglievano gli altri. E poi le strategie venivano valutate a seconda della qualità dei prodotti che riuscivano a trovare. Quello che è venuto fuori è che le strategie migliori si affidavano quasi esclusivamente alla copia, quindi non perdevano tempo a sperimentare, diciamo, per conto proprio, ma guardavano gli altri e sceglievano i prodotti che avevano preso gli altri. Quindi il tipo di problemi che veniva chiesto loro di risolvere erano appunto scegliere qualche tipo di prodotto in uno scaffale fittizio di un supermercato, cose di questo genere? Esatto, diciamo la formulazione del problema era un po' più astratta, però è esattamente analogo a questi problemi, diciamo, quotidiani. Ecco, va bene, ma si avvicina la maturità. Allora, cosa vuol dire? Che il copione vince. Beh, in alcuni casi sì, però è ovvio, certo. Però. Lo studio, diciamo, nonostante il successo delle strategie, diciamo, imitative, non fa anche vedere che queste strategie hanno dei limiti. Mm. Intanto vanno usate, diciamo, con cognizione di causa, perché ovviamente se io copio dal mio vicino di banco, per esempio, devo essere sicuro da copiare, che sia bravo. Copiare da qualcuno che sa quello che sta facendo. Certo. Questo è stato sempre un problema dell'imitazione, perché se io non ho nessuna, diciamo, comprensione del problema che sto affrontando, non posso scegliere il modello. Quindi la copia può essere fatta solo, la copia, diciamo, diventa efficiente solo se è fatta con criterio. Sì. Beh, ma allora qui c'è una differenza, perché nel supermercato io magari ci metto un po' di tempo, ho pazienza, mi metto lì e statisticamente vedo se gli spaghetti XY sono scelti dalla maggioranza delle persone e quindi prendo quelli. Voi dite, se analizziamo questo dato, viene fuori che effettivamente la scelta è migliore. Durante la maturità uno dovrebbe poter girare fra tutti i banchi. Beh, ma uno, se ha fatto l'esperienza durante l'anno, sa qual è il secchione, si mette vicino a quello. Vabbè, così. Però allora va bene per uno, capisci? Perché tutti gli altri invece devono girare, a meno che sto secchione non sia circondato. In genere i compiti della maturità sono un po' più furbi di quello, perché non si può copiare un tema o i passaggi di un problema di matematica. Mm. Infatti un'altra limitazione, se vogliamo, del nostro studio era che affrontava un problema, diciamo, molto semplificato. Ecco, quindi infatti l'entità del problema è importante. Sì. Esatto, abbiamo in programma di ripetere lo studio se riusciamo a trovare i fondi per la ricerca necessaria, con dei problemi, diciamo, più complicati che non possono essere semplicemente copiati in maniera, diciamo, facile. Beh, quindi è ancora importante trovare strategie nuove, innovare, eccetera, eccetera. Quello deve rimanere, dai, non dobbiamo diventare tutti copioni. No, anche perché infatti nel nostro studio la copia beneficiava chi la usava, ma non beneficiava la situazione e la società nel suo complesso, nel senso che è sempre necessario che ci sia qualcuno che in prima persona provi delle soluzioni nuove, altrimenti chi copia non sa che cosa copiare. Infatti se noi abbiamo fatto delle prove successivamente al torneo mettevamo nel supermercato, nell'arena di gioco, solo strategie che copiavano, queste non capivano niente, perché non c'era nessuno che raccogliesse l'informazione primaria andando a provare i prodotti. Non c'era la mente. Insomma, voi avete testato l'esistenza del furbo, scientificamente, cioè. Praticamente. Sì, però sempre con criterio. Sì, ma del furbo individualista, no? E in ogni caso, quando se la furbizia si diffonde troppo, la società ne viene inficiata. Certo. E infatti noi vediamo che le società moderne hanno molti modi o cercano di trovare modi per proteggere l'innovazione. Per esempio, il mio lavoro di ricercatore è pagato dallo Stato, indipendentemente dal fatto che poi le mie idee vengono usate dalla società, cioè io ho un lavoro che è proprio quello di trovare cose nuove, in modo che io abbia, diciamo, un reddito, una situazione garantita che non mi rende immune al fatto che poi gli altri mi copino. Non starà mica dicendo che lei copia. La situazione. No, lui no. L'Irlanda lei non copia, vero? Non ci sta dicendo che lei copia. È che sto dicendo che non copio, perché comunque il tenersi aggiornati su quello che fanno gli altri ricercatori è comunque parte importante della ricerca. Sto dicendo che se non ci fosse, diciamo, un incentivo all'innovazione, si sarebbe un po' nella situazione in cui si trovavano i compositori musicali prima che venisse inventato il diritto d'autore. È vero. Semplicemente, diciamo, chi possedeva le grosse case editrici, tipo in Italia il più importante era Ricordi, si appropriava degli spartiti in un modo o nell'altro e poi li poteva pubblicare tranquillamente. Tranquillamente, sì. Esattamente. Va bene, Stefano, grazie mille e insomma alla prossima ricerca, tanto sei un vulcano, insomma, tanto per rimanere in tema. grazie a voi anche a nome degli altri collaboratori della vostra attenzione. Buona serata. Grazie, buona serata. Un bel articolo sull'ultimo numero delle Scienze si intitola La nuda verità. Maurizio Melis ve lo recensisce ora e lo promuove con un commento che, molto più prosaicamente di quanto titolato dalle Scienze, noi potremmo chiamare Nudi e sudati. C'è chi è peloso e chi no, ma il più irsuto di tutti gli esseri umani non può competere con il più spelacchiato degli animali dotati di pelliccia. Sul perché e sulle conseguenze del nostro essere glabri ha scritto su Scientific American Nina Jablonski, antropologa della Pennsylvania State University. Iniziamo dal perché. Sembra che la cosa sia da attribuire al cambiamento climatico a cui andò soggetta la Terra circa 3 milioni di anni fa. Una fase di raffreddamento globale cancellò le foreste in cui vivevano i nostri antenati, trasformandole in savane. A quel punto i nostri progenitori pelosi avevano un problema. La frutta non gli cadeva più in testa, ma bisognava andare a cercarsela e magari anche allargare un po' la dieta, iniziando a includere la carne. Ciò favorì lo sviluppo, per esempio, di arti inferiori più lunghi, adatti alla corsa, all'inseguimento e ai lunghi spostamenti. Ma a quel punto si presentava un altro problema. Correre e spostarsi sotto il sole richiede una grande capacità di termoregolazione. In caso contrario, il rischio di collassare rimanendo in balia dei predatori o peggio di danneggiare i tessuti surriscaldandoli, soprattutto il cervello. La risposta che la selezione naturale trovò fu duplice, via la pelliccia e tantissime ghiandole sudoripare. Per la verità non è che le scimmie moderne, piuttosto che i nostri antenati, non sudassero, ma si trattava di un sudore diverso, di tipo oleoso, adatto alla pelliccia ma molto meno efficace del sudore acquoso tipico degli esseri umani, che evaporando a diretto contatto della superficie della pelle sottrae calore al corpo in modo molto molto efficace, fino a 12 litri al giorno, tanto il sudore che siamo in grado di produrre. Un sistema di termoregolazione talmente efficace che, pensate un po', in una maratona sotto il sole a picco, un uomo potrebbe battere un cavallo che dopo un po' non ce la farebbe più. Insomma, nudo e sudato, il nostro comune antenato si era assicurato un futuro raggiante nelle savane africane di qualche milione di anni fa. E ora veniamo alle conseguenze di tutto ciò. La capacità di termoregolazione così potenziata si rivelò infatti un plus ben al di là del problema immediato di sopravvivere sopravvivere alla calura. È un dato frequente questo nell'evoluzione. Un carattere che evolve per una ragione finisce poi per avere ricadute del tutto inattese. Uno degli organi più sensibili al surriscaldamento, infatti, è il cervello, che così poté raddoppiare di volume senza problemi. Passò da 400 a 800 centimetri cubi. Vennero meno anche una serie di funzioni mimetiche e di comunicazione affidate alla pelliccia, che dovettero essere sostituite con comportamenti più complessi. Insomma, perdere il pelo ci ha reso molto molto più umani e posto le basi per almeno due mestieri, parrucchieri e stilisti, che insomma dovrebbero andarne orgogliosi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un libro sull'uso delle droghe, in senso lato, l'ecstasy ma anche l'alcol, rivolto ai giovani ma utile assolutamente per tutti. Ve ne parla Barbara Gallavotti. Strafatti, cioè niente altro che fatti, sulle droghe più usate e abusate, dall'alcol all'ecstasy. È il titolo di un libro pubblicato negli Stati Uniti e tradotto da Springer in un'edizione curata da Michele Simonato e Mario Barbieri, rispettivamente tossicologo e chimico all'Università di Ferrara. Michele Simonato è con noi. Buonasera. Buonasera. Il libro parte da un presupposto. Le campagne di informazione sulla droga non sono efficaci. Perché non sono efficaci? Ma spesso le campagne di informazione sulla droga tendono ad essere improntate ad un qualche pregiudizio di tipo ideologico. Esistono alcune campagne che tendono a considerare qualunque sostanza di abuso estremamente pericolosa e estremamente lesiva della salute, e si orientano attraverso l'illustrazione di esempi particolarmente gravi, particolarmente pericolosi. E viceversa, esistono altri atteggiamenti che sono eccessivamente assolutori e tendono quindi a sottostimare i rischi collegati all'assunzione di sostanze. Ovviamente non è facile tenere una posizione equilibrata, legata all'informazione scientifica, direi laica, rispetto a questo problema. Però credo che sia un dovere di chi informa tentare di farlo, cercare di farlo nel modo migliore possibile. Il libro ha una prefazione di Matteo Viviani, che è una delle Iene, che dice che dopo averlo letto, se capiterà di incontrare qualcuno che tenta di infilarsi sotto pelle insetti immaginari, allora tutti capirete che è sotto l'effetto di anfetamine. Effettivamente, in ogni capitolo voi descrivete una diversa sostanza e i suoi effetti, e quello che colpisce è la loro diversità. Sì, in effetti le droghe, contrariamente a quello che alcuni pensano, hanno effetti estremamente diversificati. Esistono categorie di queste cosiddette droghe che sono degli stimolanti, cioè eccitano, aumentano l'attività cerebrale, e al contrario esistono altre che sono addirittura dei sedativi, cioè rallentano l'attività cerebrale e riducono l'ansia. Esistono sostanze che hanno degli effetti allucinogeni e che quindi non possono essere classificate né come sedativi né come stimolanti, altre che determinano un senso di empatia nei confronti del mondo circostante, è il caso dell'ecstasy, e quindi presentano dei profili di effetti ancora diversi. Tutte queste diversità di effetti corrispondono a meccanismi elementari d'azione, cioè a modalità attraverso le quali queste sostanze agiscono sul cervello, che sono ancora più complessi e ancora più diversificati fra di loro. Quindi, se mi permette la battuta, non è proprio possibile fare di tutte le erbe un fascio. Cioè, e neanche di tutte le polveri. Esatto. Voi citate proprio delle scoperte di neuroscienze recenti che sono molto interessanti per spiegare che cos'è la dipendenza e perché poi è così difficile per alcune persone, non per tutte, smettere di drogarsi una volta che si è presa l'abitudine a farlo. Faccio una premessa: al di là di tutta questa diversificazione di effetti e di meccanismi d'azione, c'è un elemento comune che può essere utilizzato per raggruppare tutte queste cosiddette droghe, però il tratto comune di tutte queste sostanze è quello di esercitare degli effetti sui circuiti cerebrali del piacere. I circuiti cerebrali del piacere sono dei circuiti che svolgono una funzione fondamentale dal punto di vista biologico. perché ci fanno riconoscere come piacevoli esperienze che sono importanti per la conservazione dell'individuo, per la conservazione della specie, per esempio il consumo di cibo, l'attività sessuale, la relazione con i propri simili. Ora, queste sostanze hanno il tratto comune di stimolare questi circuiti e di creare quindi una esperienza piacevole, gratificante. Non esiste alcuna sostanza di abuso che non abbia un effetto fondamentale di tipo gratificante. Altrimenti nessuno ne farebbe uso, ovviamente. Altrimenti nessuno ne farebbe uso. Il problema qual è? Che in alcuni individui queste sostanze finiscono per sequestrare i circuiti del piacere in un modo per cui quell'individuo non tenderà più a perseguire le altre forme di piacere, ma unicamente la ricerca e il consumo della sostanza di interesse. Perché è così difficile smettere? Ci sono delle nuove evidenze che vengono dalla recente letteratura scientifica che suggeriscono in maniera molto forte che i circuiti del piacere siano in qualche modo collegati con fenomeni di memorizzazione, che è anche tutto sommato intuitivo. È intuitivo il fatto che memorizzare serva a perseguire condizioni nelle quali sarà possibile ripetere l'esperienza piacevole. Ora, questo sembrerebbe avvenire anche con le sostanze di abuso. E la cosa interessante è che queste tracce mnemoniche dell'esperienza sembrano essere di gran lunga più persistenti rispetto a fenomeni adattativi tipo lo sviluppo di tolleranza che comporta la necessità di aumentare la dose, oppure lo sviluppo di dipendenza fisica che comporta la sindrome di astinenza se si interrompe improvvisamente l'assunzione della sostanza. Questi ultimi sono fenomeni adattativi che si risolvono rapidamente, mentre le tracce mnemoniche tendono a persistere molto ma molto più a lungo, ragione per cui delle persone, degli ex tossicodipendenti ormai disintossicati, che però ritornano in zone dove erano abituati a consumare la sostanza, probabilmente tenderanno a ricadere nell'uso. Grazie Michele Simonato, buonasera. Buonasera. Con 26 geni in meno rispetto a quelli che normalmente possediamo, la nostra specie subisce cambiamenti singolari. Si chiama sindrome di Williams e ve ne parla Chiara Albicocco. Sbocciano sindromi come fiori a primavera. Settimana scorsa vi ho riferito della sindrome della clessidra, quella che affligge coloro che si stressano davanti alla clessidra del computer quando è in attesa di un download. Ecco, oggi spendiamo qualche parola invece sulla sindrome di Williams. Dunque, i bambini colpiti da questa rara patologia sono smaliziati, socievoli, privi di qualsiasi paura nei confronti del prossimo e non giudicano gli altri secondo luoghi comuni, legati soprattutto all'etnia. Così di primo acchito questi bambini sembrano manifestare le attitudini che contraddistinguono appunto tutti i bambini del mondo, ma la sindrome di Williams è in realtà una malattia genetica ed è causata dall'assenza sul cromosoma numero 7 di ben 26 geni. Questi bambini infatti riportano purtroppo anche gravi ritardi psicomotori e mentali. Alcuni ricercatori dell'Università tedesca di Heidelberg hanno svolto uno studio pubblicato su Current Biology in cui la prima volta la ricerca scientifica dimostra la totale assenza di stereotipi razziali in una popolazione umana. La notizia sembra interessante, ma ora vi spiego come l'hanno capito. I ricercatori hanno mostrato a 40 bambini, 20 affetti dalla sindrome di Williams e 20 no, hanno mostrato loro una serie di vignette con donne e uomini appartenenti a diverse etnie, quindi con gli occhi a mandorla, con il colore della pelle olivastro, nero, giallo e così via. Poi hanno chiesto loro di descriverle, assegnando a ciascun personaggio un attributo, positivo o negativo. Ebbene, quali sono stati i risultati? Mentre i bambini non affetti dalla sindrome giudicavano i disegni secondo dei luoghi comuni, quindi legati al sesso e legati all'etnia, e quindi mostravano di preferire più che altro gli individui più simili a loro, quelli invece affetti dalla sindrome non manifestavano alcun pregiudizio razziale. E tuttavia anche questi ultimi hanno descritto i due sessi con delle immagini stereotipate. Questo ha portato i ricercatori a pensare che le due forme di discriminazione, quindi quella razziale e invece quella di genere, quella sessuale, siano controllati da due diversi circuiti cerebrali ben distinti. Ed ecco che cosa afferma Andreas Meyer, che è autore dello studio. Sebbene già sospettassimo che i bambini con sindrome di Williams non mostrano alcuna preferenza verso individui con il loro stesso colore della pelle, la totale assenza di discriminazione razziale è sorprendente. Dopo un altro colpo. La colonna sonora del cartone animato di Diabolik. Le sorelle Giussani, Angela e Luciana, finiscono al Politecnico di Milano. Ma se le sorelle Giussani vanno lì è perché si portano appresso Diabolik, il personaggio che queste due donne editrici simpatiche in gamba inventarono nei primi anni 60 del secolo scorso. E se Diabolik va al Politecnico è perché nei suoi 47 anni di onesto lavoratore del crimine ha inventato un sacco di marchingegni, molte ingegnerie, mettiamola così, per intrappolare e giocare brutti scherzi ai suoi inseguitori o ai possessori, tipicamente di gioielli, che lui ed Eva Kant continuano a depredare. Nell'atrio del Politecnico di Milano quindi c'è questa mostra per una decina di giorni sull'invenzione di Diabolik, tavole dai fumetti ingrandite e modellini di queste sue invenzioni. Mario Gamboli, uno degli autori del fumetto, direttore della casa editrice e anche un laureato del Politecnico, come risponde alla seguente domanda? Le invenzioni di Diabolik sono alquanto verosimili, ovvero molto distanti da quei marchingegni iperbolici che vediamo in altri fumetti? La forza delle invenzioni diaboliche sono ovviamente spettacolari e di essere credibili, cioè la sensazione che deve avere il lettore è che tutto sommato se fosse un bravo bricolore forse potrebbe farle anche lui se avesse il genio di Diabolik. Non a caso Diabolik usa pochissimo l'elettronica, usa soprattutto la meccanica, la chimica elementare. Certo, in certi casi, per esempio il laser che è esposto qui è la ricostruzione del primo laser usato da Diabolik nel 67 e chiaramente non ha niente a che fare con i laser veri e quindi ha fatto una specie di mitragliatrice Gatling della guerra di secessione americana il disegnatore, no? Però faceva effetto, se guarda il disegno, e questa è la forza, il disegno è fatto in maniera così realistica da rendere credibili anche delle cose che sarebbero un po' difficili da realizzare, sì. Anche se non impossibili, perché Diabolik non è un supereroe, Diabolik non vola, Diabolik non è indistruttibile, non ha superpoteri. Diabolik è uno soltanto più bravo di noi nell'inventare qualcosa. E forse questa tecnica, questa tecnologia molto verosimile gli dà anche quel carattere di giallo, di poliziesco che invece in altre cose dove si può inventare di tutto viene perso. Certo, nel momento in cui un personaggio può fare tutto non ha più fascino. Nessuno può immedesimarsi in Superman. Ecco, però adesso voi continuate con successo a fare Diabolik, una serie di tecnologie, per esempio appunto l'elettronica, i computer, li introducete poco poco. Citiamo ovviamente, cioè Diabolik può dire con il computer ho scoperto questa roba qui, sono entrato nel computer della polizia e ho scoperto che, però non lo vediamo mai usarla, perché il fumetto è statico, il film è dinamico. In un film i computer possono riempire una scena, no? Vengono proiettati sul muro, la gente tocca, cambia l'immagine. E in un fumetto si è statici, cioè il computer è un televisore spento davanti al quale c'è una persona che lo guarda, non può scrollare, non ci sono colori e quindi usare il computer diventa noioso. Molti di voi sanno che Eva e Diabolik hanno una Jaguar E, e se non lo sapete ve lo dico io, potente macchina sportiva di 40 anni fa, oggi oggetto di culto automobilistico. Le sorelle Giussani avevano una Volkswagen e se ne intendevano poco di macchine, sebbene le amassero. La Volkswagen ha il motore dietro, la Jaguar davanti, ma in uno dei primi episodi di Diabolik lui uccide qualcuno e infila il corpo nel vano anteriore della Jaguar, dove c'è il motore. È una delle tantissime cose divertenti di questa lunghissima storia. Ci sono poi i misteri che ruotano intorno a Diabolik. Uno dei più fitti riguarda uno dei suoi primissimi disegnatori. Sentiamo ancora Gamboli. Sì, è uno dei tanti misteri di Diabolik, forse il più strano, perché il primo disegnatore si chiamava Zarcone, detto in tedesco perché era alto e biondo, forse però era svizzero, aveva già disegnato delle vignette per Gino Sansoni, che era il marito di Angela, e poi ha fatto questo fumetto e poi è sparito nel nulla, nel senso che non si è più saputo niente, ha preso i soldi e se n'è andato. Dei Sussani l'hanno cercato, adesso addirittura uno del Diabolik voleva andare a chi l'ha visto per il ventennale, il trentennale, il quarantennale, abbiamo cercato di rintracciarlo mettendo avvisi vari, con internet dovrebbe essere più facile. Probabilmente a questo punto sarà anche morto, poverino, perché non era un ragazzino negli anni 60, però aveva un figlio, ammesso che fosse suo figlio, un ragazzino che si portava in giro. C'è chi ha trovato un Angelo Zarcone e era convinto di aver trovato quello giusto, invece è ancora vivo, ha 86 anni e fa il macellaio. Non è lui. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci alla soluzione del quiz. Vi ricordate, la domanda è se siamo abbastanza lontani dalla velocità massima che un umano può raggiungere in corsa. Parliamo ovviamente dei 100 metri, quelli maschili. Una ricerca molto recente ha analizzato quasi 90 anni di corse in varie tipologie, 100 metri, 200, 300 e la via così. Non solo, ha preso anche in considerazione le prestazioni dei cavalli, che sono gli altri animali dei quali si prendono da sempre i tempi delle loro corse. La ricerca ha constatato che in tutte queste prestazioni la situazione è di una crescita delle prestazioni un po' disordinata all'inizio e però stabile, ma appunto sempre a salire, ma a salire sempre meno. Nel Kentucky Derby del 1949, per esempio, corsa per cavalli, si raggiunse un massimo che poi rimase sostanzialmente insuperato. Mettendo insieme tutti i dati, insomma, i ricercatori ci dicono che se Usain Bolt, il giamaicano Superman, raggiungesse i 9,48 e gli manca poco sui 100 metri, è altamente probabile che quello sia il limite. Quindi siamo molto vicini al limite assoluto. Spesso nella nostra trasmissione ci interessiamo di innovazione, i temi che riguardano l'innovazione sono molti, noi li abbiamo seguiti un po' tutti, però insomma stiamo attenti alle novità importanti che mano a mano vengono fuori. Per parlare di una di queste novità abbiamo ospite questa sera Graziano Dragoni. Buonasera Dragoni. Buonasera a voi. Direttore generale della Fondazione Politecnico. Allora, la settimana scorsa voi avete presentato un progetto di piattaforma per una formazione costante alla cultura dell'innovazione. L'avete presentato a Milano insieme ad Asso Lombardo. Allora, provi brevemente a dirci che cos'è questa piattaforma. Questa piattaforma vuole essere un modo per avere un dialogo continuo con le numerose piccole e medie imprese sparse in Lombardia e non solo in tutta Italia, e che possono avvalersi attraverso questa piattaforma di un contributo da parte dei centri di ricerca, dei dipartimenti, dei gruppi di ricerca del Politecnico di Milano. Già nel passato, attraverso percorsi formativi finanziati da fondi interprofessionali della Regione Lombardia, abbiamo attivato meccanismi di trasferimento tecnologico, però ci sembrava venuto il momento di instaurare un dialogo continuo e costante con l'utente finale, che attraverso questa piattaforma ha la possibilità di proporre contenuti, di mediare rispetto all'offerta che il sistema politecnico sviluppa, e quindi essere un interlocutore continuo con l'Ateneo, sfatando un po' questo luogo comune per cui gli Atenei sono roccaforti inaccessibili rispetto alle piccole e medie imprese. Possiamo anche descriverla così, cioè il Politecnico fa da tempo un'attività di formazione all'innovazione per le aziende, però in questo caso voi siete andati un po' proprio alla radice del problema. Le chiedo se in questo momento le persone che ci ascoltano, tra queste persone ci sono dei dirigenti, dei manager, insomma della gente che si interessa di innovazione e magari ha un problema in un determinato campo, può accedere a questa piattaforma, si può anche formare, trovare un gruppo di persone che ha gli stessi problemi e voi riuscite a creare con questa comunità un'attività di formazione, quindi siamo proprio, diciamo, alla base del problema. Sì, un'attività di formazione o comunque sia anche un'attività di supporto a problematiche di ricerca applicata. La Fondazione da questo punto di vista è un elemento di contatto anche per quanto riguarda attività di ricerca e problematiche più specifiche che possono interessare un'azienda, oltre a quello appunto di incentivare la formazione dell'innovazione. Ci preoccupiamo noi di trovare i fondi, ci preoccupiamo noi di mettere assieme classi interaziendali e quindi da questo punto di vista le piccole e medie imprese trovano sicuramente un partner proattivo e disponibile. Senta, com'è che si accede allora a questa piattaforma? Cosa bisogna fare? Bisogna accedere al sito Poly at Work. Sì, lo pubblicheremo anche sul nostro sito. Esattamente, e a questo punto si hanno diverse aree in cui uno può chiedere informazioni, può iscriversi ai corsi che sono già a catalogo, perché noi con i consorzi e con tutti i dipartimenti abbiamo anche presentato un'offerta interdisciplinare che va dalle risorse ambientali, dalle tecnologie sostenibili ad aspetti di ICT, di management, quindi copriamo un po' quelli che sono gli aspetti allo stato dell'arte dell'evoluzione dell'innovazione e quindi dare dei contributi, fare delle proposte, proporre delle anche modifiche a corsi esistenti, dei nuovi corsi, oppure anche solo chiedere dei seminari ad hoc molto più specifici o anche solo degli incontri per presentare le proprie problematiche, la propria situazione competitiva. Risolvere un problema specifico. Sarà bene ricordare che questo servizio è gratuito. Assolutamente sì, questo servizio è gratuito, poi ovviamente se da questo servizio si innescano delle azioni che hanno dei follow up e richiedono delle attività importanti, bisognerà valutare di volta in volta, però sicuramente tutte le attività formative sono gratuite e poi ci saranno attività di ricerca specifiche eccetera, verranno valutate di volta in volta e verrà valutata la possibilità di trovare delle risorse pubbliche per finanziare queste attività. Graziano Dragoni, buonasera, ci informi sugli sviluppi, ci interessa sapere come andrà in questi primi tempi il servizio che voi state offrendo. Molto volentieri, grazie a voi. Grazie, a presto. Breve ma importante correzione a quanto abbiamo appena detto. L'indirizzo internet della piattaforma di cui abbiamo appena parlato è polymi.it. Questo è l'indirizzo esatto. Li avrete senz'altro visti in molti documentari televisivi dedicati alla vita sottomarina. Sono quei pesci bellissimi con il corpo disegnato a righe verticali di colori alternati, marrone scuro, chiaro, bianco. E poi dal loro corpo si dipartono tanti aghi come se fossero un istrice del mare, lunghi che si muovono lentamente con grande eleganza nella densità dell'acqua. La faccia di questi pesci, per darvi un altro spunto per meglio ricordarli, è molto simile a quella del meno appariscente pesce cappone, quello rossiccio, che troviamo anche nei nostri mari. Infatti il pesce leone, così si chiama quello di cui stiamo parlando, vive nelle acque degli oceani Indiano e Pacifico. L'aspetto è meraviglioso, la sua indole un po' meno. Le sue spine sono velenosissime e poi è carnivoro e si mangia un sacco di altri pesci. La cosa preoccupante poi è che da 3 anni è stata rilevata una sua consistente presenza nelle acque della Florida. Quindi è passato dall'altra parte, finendo nell'Oceano Atlantico, ma sta anche avanzando verso i Caraibi. Questi spostamenti di specie sono sempre eventi che devono essere seguiti con attenzione. A volte sono innocui, altre creano problemi. Certo, questa è la storia dell'evoluzione naturale, però possiamo ritenere che l'allargamento territoriale del pesce leone sarebbe meglio controllarlo. Perché? Perché il pesce leone sta creando grossi problemi a troppe altre specie, nel senso che se le digerisce. è attrezzato di questa grande energia che gli deriva da un'alimentazione abbondante, si sta anche riproducendo a una notevolissima velocità. Allora succede che gli hanno messo sopra una taglia, non per ucciderlo, non sarebbe giusto, non sarebbe carino, no, la National Science Foundation americana ha messo in campo $700,000 di finanziamento per i ricercatori dell'Università dell'Oregon con l'obiettivo di capire come mai il pesce leone abbia questa incredibile capacità di riprodursi e allargare la sua presenza. I dati da cui si parte sono inquietanti, si può dire. Immesso in un ambiente controllato, in presenza di altri pesci, cioè un'area delimitata ma ampia, attenzione, un solo esemplare di pesce leone è in grado di ridurre del 79% la presenza di altri pesci, il tutto in 5 settimane. Un esemplare è stato visto mangiarsi 20 pesci in 30 minuti. Una prima sensazione che i ricercatori hanno elaborato è che il pesce leone, per la sua struttura, non è percepito come un pesce dagli altri abitanti del mare, che quindi non scappano al suo arrivo. In tutte le aree coralline questo pesce può causare un ulteriore danno. Qui infatti vivono molte specie che sono erbivore. Poiché lui se le mangia tutte, è facile prevedere che le alghe proliferino a dismisura, creando seri problemi alla continuità degli insediamenti corallini. Si stanno pensando a varie contromisure. Una merita citarla. Il pesce leone non è mai stato pescato dalle attività dei pescherecci. Però i ricercatori hanno provato a cucinarlo e ne è venuto fuori che è molto buono, cotto con varie ricette. Quindi ecco la nostra risposta al leone. Promuoviamone la pesca e mangiamocelo noi. Così la sua presenza si ridurrà. Underneath the Eyjafjallajökull glacier. The eruption at the Eyjafjallajökull glacier. Volcano underneath the Eyjafjallajökull glacier. Eyjafjallajökull on record. Iceland's Eyjafjallajökull volcano roared back into life. Tutti i giornali radio e anche i telegiornali, quando parlano della nuvola e parlano del vulcano, dicono il vulcano dal nome impronunciabile. Noi abbiamo voluto risolvere questo problema. Il console onorario dell'Islanda, che è italiano, ci ha messo in contatto con una signora islandese. Hello. Pronto? Pronto? Signora Laura? Sì. Sono Pedrocchi, arrivo lei dal console. Sì. E noi da lei abbiamo soltanto bisogno che ci pronunci il nome di questo vulcano. Che disastro è questo vulcano? Va bene, non c'è problema. Come si chiama? No, il nome è Eyjafjallajökull. Lunghissimo. Significa qualcosa questo nome? Sì, allora, lo spezzo in tre. Eyja, che vuol dire isola. Fjalla, che vuol dire delle montagne. E Jökull vuol dire ghiacciaio. Ci sono dentro tutti gli ingredienti che poi hanno portato alla nuvola. Vedi? Sempre parlando delle polveri islandesi, veniamo a cose serie, parliamo appunto delle polveri, brevemente, ma a sufficienza per sottolineare come questa vicenda dell'effetto che le ceneri possono avere sui motori degli aerei è diventata una questione controversa. Alcune linee aeree hanno portato in volo senza passeggeri i loro grandi velivoli, li hanno fatti passare nelle zone cariche di nuvole del vulcano e ci hanno detto che non è successo niente. Però due caccia F-16 della NATO invece risulta che abbiano avuto problemi. C'è poi chi ha ricordato il 1982, quando un Boeing 747 in volo da Londra a Auckland, Nuova Zelanda, si infilò in una nube emessa dal vulcano Gulangung. Ma perché si chiamano così questi vulcani? Come bello Etna, per esempio. Allora, il Gulangung si trova sull'isola di Java. I motori del 747 si fermarono quando l'aereo era a 11.000 metri e fortunatamente ripresero a funzionare dopo 12 minuti quando l'aereo era già sceso a 4.000 metri. Allora forse non è stato allarmismo adesso fermare i voli. Però c'è chi dice che c'è polvere e polvere che non sono uguali per composizione e densità. E questo ci sta. Spunta fuori inoltre che un dispositivo è stato progettato ma mai implementato sugli aerei per individuare le nubi di polvere in lontananza e individuare una rotta che escluda effetti negativi. Il sistema dovrebbe essere in grado, insomma, di analizzare una vasta area del cielo nella quale si trovano queste polveri, misurando le densità relative e trovando quindi un corridoio buono. Però alcuni dicono, attenzione, che questa roba fa cambiare le rotte, non è che le rotte degli aerei si possono spostare come i motorini in una città. Insomma, in conclusione direi che la nuvola ci ha fatto capire che ci sono alcune cose importanti nel trasporto aereo che non capiamo. Sciolta una grande incognita, dunque non mi azzardo a ripetere il nome del vulcano, invece vi auguro una buona serata, dandovi appuntamento con Möbius alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.